Ad alta voce, Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. 24esima puntata. Forse per un rumore o per un sogno, Xenia si sveglia nel pieno della notte. Con la mano, con il piede, cerca il corpo di Mimmo accanto a sé. Trova soltanto le lenzuola gelate, il buio. Stropicciandosi gli occhi, rabbrividendo, Xenia si infila la vestaglia, se la stringe addosso. Nel freddo pungente va verso lo studio di Mimmo, sicura che lui stia ancora lavorando. Perché se lei di tanto in tanto non lo richiamasse all'equilibrio, l'ansia di pensare e di fare gli farebbe dimenticare ogni cosa. Passando dalla cucina prende l'avanzo di spaghetti rimasto dalla cena, per rendergli meno fastidiosa l'interruzione. Nello studio Mimmo non c'è, le luci sono spente. Con lucidità maggiore Xenia ricapitola la giornata, pensa se per caso non si stia sbagliando. Un comizio? Una conferenza? No, Mimmo è in soggiorno. La lampada a stelo gli illumina gli occhiali e i foglietti su cui sta annotando qualcosa. Accanto a lui la radio accesa, piena di rumori e interferenze. Sui suoi foglietti Xenia vede il computo dei voti, favorevoli, contrari, astenuti. A favore hanno già votato gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e anche la Francia, fino all'ultimo incerta sulla posizione da assumere. Gli spaghetti sull'angolo del tavolo inutili. Mimmo nemmeno li guarda. Questa volta l'attesa gli serra le labbra e lo stomaco. Finalmente l'annuncio. Con 33 voti favorevoli, 13 contrari e 10 astenuti, l'Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione che divide in due la Palestina, assegnandone una parte agli ebrei. Dalla radio, confusamente, grida di giubilo e di protesta. Xenia guarda Mimmo, cerca i suoi pensieri. Lui appallottola piano i foglietti, quasi con dolcezza. Poi, senza guardarla, cerca dove buttarli via. Sul suo viso c'è una grande, disperata stanchezza. Mormora: Mazal Tov, buona fortuna. Prende Xenia per la mano, accetta che lei lo accompagna a letto. Con la lettera di Mimmo sulle ginocchia, Alfonso guarda il pollaio, i brutti edifici delle officine che il kibbutz ha lasciato fuori dai propri confini, come esterna è la casa dove Alfonso vive. Alfonso si alza, va a spargere il mangime con gesti irregolari, si china a controllare che le vaschette dell'acqua siano piene. Dietro gli alberi un vociare, i giovani del kibbutz per la visita concordata di studio e lavoro all'allevamento. Gli occhi stanchissimi di Alfonso non sempre distinguono fra chi le è nipote e chi no, ma va bene così, una garanzia di imparzialità. In un angolino negato c'è una speranza, che le spighe trapiantate qui, confuse con le altre, riescano a salvarsi da quella maledizione antica che già le ha strappato due figli e ancora non si sazia. Tuttora Alfonso non si ammette superstizioni, però tante volte la vecchia del ghetto le è tornata negli incubi e i sonni difficili e brevi della tarda età non sono riusciti a cancellarla. Alfonso dà le consegne ai ragazzi, saranno loro a provvedere a tutto durante la sua assenza, perché di nuovo la vogliono al di là del mare, le sue mani deformate dall'artrite ancora chiamate a dare sicurezza, aiuto. I ragazzi le fanno domande. Tutti per la consuetudine del kibbutzim la chiamano nonna, ma un pulsare più veloce del sangue la avverte di Daniel, il figlio di Enzo e Ada. E gli occhi del ragazzo hanno quel lampo, quella scintilla nota che la fa tremare. Alfonso, protetta dal cerchio dei ragazzi, la sua affettuosità schiva si abbandona per una volta a un abbraccio e Daniel si stupisce. È che Alfonso proprio non vuol partire. Non è giusto che la vita continui a chiederle di essere forte per tutti. Vorrebbe sedersi qui per sempre, vorrebbe poter restare. L'abbraccio si è già sciolto, insieme agli altri Daniel va via. In casa, quasi a tentoni per risparmiare la luce, Alfonso comincia a preparare i bagagli, fra camicie e sottovesti anche un pompelmo magnifico, per portare e portarsi in Italia un po' dei profumi e dei colori di qui. Otto agosto 1950, alla segreteria del Partito Comunista Italiano, sede. Cari compagni, come ho già comunicato oralmente al compagno D'Onofrio, il professor Baldoni mi ha informato ieri che, all'esame istologico, il tumore alla tiroide di cui la mia compagna è stata recentemente operata è risultato di natura maligna, o più esattamente in via di degenerazione maligna. L'atto operatorio ha permesso l'asportazione del tumore, che non aveva ancora infiltrazioni locali, ma ciò non esclude, disgraziatamente, la probabilità di metastasi, che dai tumori della tiroide sono particolarmente frequenti in direzione del sistema osseo. I clinici non mi hanno nascosto la gravità della prognosi, non prevedono tuttavia un decorso troppo rapido e catastrofico e non escludono la possibilità di un intervento che comporti una guarigione clinica con l'arresto del processo degenerativo e con un bloccamento delle metastasi. Contro a questa situazione, che come potete immaginare gravemente mi preoccupa, ho avuto uno scambio di idee col compagno D'Onofrio a proposito della possibilità di far sottoporre la mia compagna al trattamento necessario o ad altro equivalente in Unione Sovietica o in un paese di nuova democrazia. In occasione del mio prossimo viaggio a Praga, per la riunione dell'esecutivo del Comitato Mondiale, potrei informarmi delle possibilità di trattamento clinico colà esistenti e pregare il compagno Fadiev di informarmi delle analoghe possibilità cliniche esistenti in URSS. Tutto ciò è subordinato, ben inteso, anche in questa prima fase puramente informativa, all'approvazione della segreteria del partito. Nel caso che da parte della segreteria non ci fossero obiezioni e che le possibilità di un efficace trattamento clinico in uno dei paesi suddetti risultassero effettive, vi pregherei di dare il nulla osta allo svolgimento delle pratiche necessarie. Scusatemi, cari compagni, di distrarvi in un momento così grave per la vita del paese con una richiesta di carattere personale. Ho sempre condotto la mia vita di partito, credo, senza mescolarvi considerazioni del genere. E così ha fatto la mia compagna, che anche nei momenti più difficili ha sempre subordinato ogni preoccupazione personale e familiare alle necessità di lotta del partito. So che questo non è che il dovere di ogni militante, e non farei una richiesta del genere se non pensassi che essa è compatibile con un lavoro utile per il partito da parte della mia compagna, mentre mi darebbe, certo, nuova forza per il mio lavoro, liberandomi dalla preoccupazione di una impotenza di fronte al male della mia compagna, che potete pensare quanto sia atroce. Ringraziandovi, cari compagni, di quanto potrete fare nei limiti, ben inteso, dell'interesse del partito, saluti fraterni. Emilio Sereni. Il nulla osta venne accordato. Xenia volle portare a Mosca anche la bambina, come per una vacanza. Treni, un aereo ad elica, la lunga macchina nera dell'apparato, l'inverno russo come un ritorno all'infanzia. Ritrovando la sua madrelingua, Loletta, le parole venivano più morbide. Mimmo le comprava cappelli e cantava. La bimba si godeva i marmi della metropolitana, i 12 bambolotti in costumi nazionali che i dirigenti sovietici le avevano regalato, l'affetto. Con un servizio di ceramica minuscolo, comperato al GUM, portò il caffè a letto ai genitori, una miscela imbevibile e dolce preparata insieme a una cameriera grassa e affettuosa. C'era un'aria di festa per quell'essere insieme tutti e tre, senza urgenze apparenti. Poi bisognò separarsi, per Mimmo il lavoro e gli impegni, per la bambina una vita più normale, per Xenia molte cose da fare lì. Con molto entusiasmo per tutto quello che della patria socialista era dato di vedere, con molte certezze perché la scienza socialista infallibilmente piegherà la materia e il male. Per un bacio sulla fronte al momento della partenza, Xenia sospettò nella bimba un po' di febbre, ma c'erano già abbastanza amarezze nei saluti per addentrarsi in altre preoccupazioni. Xenia si limitò a raccomandazioni, coprirla bene e controllare la temperatura via via. Per Xenia Mimmo non poteva niente. tranne affidarla alla scienza di Lisenko e dei suoi. Per Claruzzi si fece infermiere di piccole cose, il fazzoletto bagnato per la febbre e le fiabe per distrarla. In viaggio la bimba smise di mangiare. Per malattia o per insofferenza ai cibi strani, all'agrodolce che non riusciva ad accettare. E quel rifiuto del cibo dava a lui come una disperazione, un senso di impotenza pervasivo e sproporzionato. Fece la voce grossa e la faccia severa. Con gli occhi chiusi di sfinimento e ripulsa, la bambina si fece sorda, lontana, in un suo mondo di febbre e dolore. Durante la sosta a Vienna, per un brodo di carne pieno di parmigiano e di Italia, la bimba accettò di mangiare. Furono necessarie altre fiabe e altri giochi, poi Clara si addormentò, placata, e la febbre cominciò a calare. Ma il senso di paura non lo lasciava e rimase a vegliarla, continuando a lavorare per impedirsi il sonno. All'arrivo avvolse la bambina in una coperta rossa, attento a lasciarle scoperto non più che il naso. Rifiutando aiuti al suo cuore malandato, la tenne in braccio fino a casa. A Mosca avevano detto che si poteva essere tranquilli. Mimmo e Xenia vollero credere, così come di tante altre cose accettarono certezze che i fatti smentivano. La religione di farsi tornare i conti, di coniugare le contraddizioni, era ancora efficace. Con i parenti, con gli amici più vicini, finché possibile, minimizzarono, mostrandosi normali. Poi bisognò risolversi alla Svizzera e fu una sconfitta grande. Era così tardi ormai, ma non si poteva smettere di sperare né di conservare l'ironia, neanche di fronte alle crisi di soffocamento sempre più gravi, neanche di fronte agli interventi d'urgenza. Roma, 27 giugno 1951. Loletta mia dolce, non so se ho fatto bene a non venire su subito. Ne avevo proprio un desiderio frenetico, un bisogno di stare vicino a te, ma mi sono deciso per il no, preferendo venire su con più calma appena finito l'ufficio di organizzazione, cioè lunedì o martedì. Ho fatto male, Loletta. Ho contato troppo sulla tua forza. Non devi aver paura di dirmelo, Loletta. Sai che ci sono state occasioni in cui non ho avuto pudore di dirti: l'ho detto solo a te e fuori facevo il coraggioso. Loletta, aiutami, non ce la faccio più. Non aver paura di dirmelo, Loletta, se hai bisogno che io venga. Se questo ti può dare un aiuto necessario. Io posso lasciare tutto e venire su subito. Basta che tu mi telegrafi una parola. Vieni. Fallo senza paura, se ne hai bisogno. Se no, verrò subito dopo l'ufficio di organizzazione. Ma anch'io ho tanto bisogno di starti vicino, di vederti. E ora ho tanta più speranza che tutto vada bene. Ti voglio tutto il bene, Loletta, e ti abbraccio forte forte. Uria, dimmi di venire se hai bisogno. Losanna, 30 giugno 1951. Mimmo mio dolce, stamattina ho avuto la tua lettera del 27 e ora sto proprio bene. Dal cassetto dove l'ho messa mi arrivano tutte le irradiazioni dell'amore di Mimmo che mi tengono caldo dentro. Povero Mimmo, chissà come sarai stato male prima di avere mie notizie dopo l'operazione. Meno male, almeno, che non sapevi che l'operazione si era dovuta fare d'urgenza e quasi quasi non si arrivava a tempo. Vedi che brutta cosa essere troppo pazienti e saper sopportare. Oggi è il primo giorno che sono completamente senza febbre ed è anche il primo giorno che riuscirò a bere e mangiare in complesso un litro, in modo da evitare l'ipodermoclisi che mi rovina le gambe e mi impedisce di camminare come dovrei. Però con tutto questo oggi mi hanno fatto fare un giro per i corridoi e sulla terrazza, con grande meraviglia di medici ed infermieri, che tutti si interessano molto alla mia sorte, perché loro non lo sanno il mio segreto. Non sanno che l'amore di Mimmo e di Loletta è più forte di tutti i mali. Per la tua venuta non aver fretta, vieni quando puoi. Sono invece molto contenta di non averti vicino. Perché già che abbiamo un'organizzazione tanto comoda di essere due in uno, bisogna sempre approfittare se si può risparmiare a uno quello che deve fare l'altro. La stessa gioia quando a Milano erano venuti ad arrestarti e tu non c'eri, l'ho provata nello stendermi sul tavolo operatorio, al pensiero che tu non ne sapevi niente e non avresti cominciato a preoccuparti che a cose fatte. E poi questa storia di non poter parlare è davvero esasperante. Sono tanto contenta che tu faccia da mamma. E per questo non sono mai stata preoccupata per le figliette. Tranquillizzale e di loro che faccio di tutto per tornare presto, rimessa a nuovo. Mimmo dolce, stai tranquillo e vieni solo quando puoi. Ti bacio tanto tanto assieme alle figliette, Xenia. Prima di partire, quando le diedero il permesso, acquistò a Losanna foulard e sciarpe, l'orrore della cannula coperto da un'ostinazione di eleganza. Si faceva capire sforzandosi a movimenti netti e lenti della bocca o scrivendo, e allora poteva permettersi una ricchezza maggiore di idee e una distanza che teneva a freno la paura. Quando Mimmo venne a prenderla per riportarla a casa, le parole erano difficili. Si strinsero le mani forte tante e tante volte. A casa, a riposo nel letto che era stato di Alfonsa, Xenia chiese a Mimmo di riacquistare il tempo perduto, di leggere i pensieri e le note di quei mesi. Mimmo le riferì dei suoi interventi contro i nemici interni, i Titini, Cucchi e Magnani che con ignominia erano stati cacciati dal partito. Per una volta Xenia avanzò un piccolo dubbio, una domanda confusa. Mimmo non aspettò, non le diede tempo. Tutti i torti da una parte e tutte le ragioni dall'altra, la sua. Poi le mostrò gli appunti del nuovo libro, i discorsi per il partito, gli articoli dei giornali. Niente di personale in tanti mesi, disse, per mancanza di tempo e stanchezza. E si sforzava di entusiasmarsi ai Liguri e alla loro storia, schivando i discorsi sul vecchio Adamo dentro di sé che Loletta conosceva dalle sue note, quelle note personali, rare e costanti, che sempre l'aveva fatto leggere. Non le scriveva più quelle note. Preferiva rinunciare alle parole Uriello che nasconderle a Loletta. E invece i medici avevano detto di no, che lei assolutamente non doveva sapere, che nasconderle la verità era indispensabile per farla morire meglio. Un macigno duro dentro. Loletta sentì il nodo, provò a toccarlo. Finché fu possibile lui glielo impedì. Obbedire agli ordini che gli venivano impartiti era tutto quello che gli restava da fare. Il tavolo basso era apparecchiato con un tovagliolo bianco ricamato. Sopra, le posate da frutta d'argento che si usavano per i bambini, il piatto bordato di arancione, il pane già tagliato in 5 o 6 bastoncini con la punta di crosta a dare consistenza. Sul tavolo il piatto con la verdura già pronta, che Clara detestava ma che avrebbe mangiato senza troppe storie, perché sul fornello bolliva in un pentolino la promessa, il premio eccezionale. Xenia si muoveva nella cucina con piccoli passi cauti e questo anche per lei era straordinario. Ermelinda guidò la bimba in cucina, l'aiutò a sedersi, spostò per Xenia una sedia e aiutò anche lei a sistemarsi. Poi le lasciò sole. Xenia non aveva voce. Clara aveva imparato a leggere sulle sue labbra le parole. Però l'assenza di suoni la inquietava, così chiacchierava senza interruzione per coprire il silenzio. Raccontò a sua madre delle bambole e del pianoforte, dei giochi in giardino e dell'asilo di Villa Paganini. La partecipazione di Xenia era tutta nella mimica del viso, nel sorriso di approvazione o nel lieve inarcarsi ironico delle sopracciglia. E bastò un suo gesto di richiamo perché la bimba, disciplinatamente, mangiasse il piatto di spinaci in fretta senza tergiversare. L'acqua nel tegamino continuava a bollire. Xenia, restando seduta, spense il gas. Poi, sempre con questi suoi gesti cauti, dal tegamino tirò fuori con un cucchiaio l'uovo. Clara seguiva ogni gesto con grande attenzione e l'eccitazione la faceva ora immobile e muta. Xenia appoggiò l'uovo su una tazzina da caffè, picchiò sulla cima per romperlo, tolse i pezzettini di guscio uno ad uno. Con il coltello tagliò di netto la cima dell'albume rassodato, la diede a Clara con un cucchiaino. La bimba lo inghiottì subito, a occhi chiusi, con un'aria di beatitudine. Xenia prese un bastoncino di pane, lo intinse appena nel tuorlo, lo sporcò di arancione e già Clara era pronta, a bocca aperta, ingorda di quella delizia rara. Il secondo bastoncino di pane, il terzo, il quarto, in un silenzio sospeso, con la luce bassa che le avvolge e le isola. Basta, legge Clara sulle labbra di sua madre, inarcate in un sorriso che chiede comprensione. Ancora uno solo. Tenta di contrattare la bimba e c'è un tale desiderio nella sua voce che Xenia non ha il coraggio di rifiutare. Per quel piccolo cedimento Clara pensò di poter insistere, di poter chiedere ancora. Xenia le ricordò l'acetone e il vomito. La bimba accettò con una smorfia delusa. Mangiò la frutta ed era già pronta per Ermelinda che l'avrebbe accompagnata a letto. Clara si voltò verso sua madre e chiese: «Domani, me lo farai anche domani?» Xenia abbassò gli occhi lucidi, poi pian piano si alzò e andò verso il suo letto, piena di dolori. Xenia era a Roma e Mimmo a Vienna, quando lei ebbe una crisi e si pensò che fosse definitiva. Con la grafia contorta dal dolore scrisse un bigliettino per lui, per non lasciarlo senza una parola, per sollevarlo da ogni colpa. 18 novembre 1951. Se non fai in tempo a arrivare è lo stesso. È come se avessi la tua mano stretta nella mia e camminiamo insieme. Scrivi un bel libro e fai un buon lavoro di partito. Saluta tutto il partito per me e tutti i compagni che ricordo uno per uno. Un riello mio dolce. Tanto, tanto amore che è tutto dentro e tutto intorno a Loletta insieme a Uriello. Poi Mimmo tornò e per farsi coraggio ancora provò a mentire come i medici avevano ordinato. Ma Xenia fece di no con la testa, piano piano per non risvegliare il dolore. E fu la fine di un incubo più terribile della morte, di quella menzogna inutile che li aveva allontanati. Un grumo duro si scioglieva e si poteva perfino piangere. Xenia pian piano per non farsi male. Tutti sapevano a Na'an che ogni chiamata telefonica, ogni lettera che arrivasse per Xenia andava considerata urgente. Nonna Xenia, la chiamavano così per affetto e perché era l'unica in età rispetto agli altri molto giovani, faceva in modo che in ogni momento potessero trovarla, lasciava puntigliose notizie di ogni spostamento e rimandava ogni impegno che non fosse strettamente necessario. Si ammalò di una delle sue malattie di vecchiaia, temette che la chiamata arrivasse proprio allora, quando non poteva muoversi né partire. Ci fu il tempo anche perché si ristabilisse. Passaporto e visto erano in ordine, ma da sua figlia ancora niente. Soltanto ipotesi vaghe. Se resterò a Roma, se tornerò a Losanna. Nel caso tu venissi potresti abitare da certi nostri amici perché da noi non c'è posto. Ancora quel tenerla a distanza, quel separare nettamente i loro destini, anche ora, anche alla fine. Ogni volta che vedeva un ragazzino correre verso di lei aveva un tuffo al cuore di speranza e di timore, perché Xenuska scriveva anche se la malattia durerà a lungo. E allo sbocco di quella galleria buia, lo sapevano ambedue, l'ipotesi di una guarigione non c'era. Poi finalmente il permesso di Xenuska arrivò. «Sarà più facile se il peso lo porteremo in due», questo raccontò Xenia agli amici del kibbutz, della lettera di sua figlia. Una frase come una tregua, forse letta fra le righe e soltanto per desiderio, per l'attesa di tanti anni, per chiudere il cerchio della lontananza. Quando arrivò a Losanna, sua figlia la inchiodò a compiti precisi, perché fosse chiaro l'aiuto concreto e l'affetto rimanesse fuori campo. Nei bigliettini che Xenuska le scriveva c'erano indicazioni di gesti, di cose, di bisogni elementari, l'acqua da bere o da riscaldare, una coperta da spostare, un nuovo sintomo da riferire ai medici. Per le emozioni, per le attenzioni nessuno spazio, soltanto un puntiglioso ribadire le proprie posizioni. Qualsiasi cosa sia, se è per me, mi farà solo dispiacere. Dimentichi che non sono più figlia. E il mio piacere e la mia gioia passano solo attraverso le figlie. Senza di loro non solo non mi importa di niente, ma sto male. Ma tu, vuoi che sia un piacere per te o per me? Come in trincea, nemiche. Quando la disperazione fu totale, Mimmo si trasferì a Losanna con una valigia pesante di carte e appunti per aggrapparsi ancora al lavoro, al libro che sarà Comunità rurali dell'Italia antica, ma che ora lui chiama Breve storia, perché fatica a pensare più in grande, più a lungo termine. Giorni e giorni, notti e notti a guardare Loletta che soffre, a tenerle la mano e non poter far niente. Se non ci fossero le parole a fare argine, il dolore dilagherebbe come un'alluvione inarrestabile. Parole da scrivere, parole da dire. Perché ora che Loletta sa, ora che più nulla c'è da nascondere, di nuovo si può parlare di tutto, senza i silenzi e le menzogne che li facevano lontani, separati come mai prima. Con le parole può dirsi salda di nuovo la costruzione che hanno edificato. Con le parole, nel tumulto della sofferenza, è possibile perfino inventarsi un'armonia. Però quanto fragile! E le rime sono il limite e il puntello, e un falso d'annunzio la radice antica, un suono, gli scherzi con Enzo e con Enrico di un tempo immemorabile, di quando i morti erano vivi, di quando la partita era ancora tutta da giocare. Tutto, tutto così lontano. E lontano è il tempo in cui Mimmo imparava a declamare versi, e poi, quante volte, recitarli ad alta voce gli è servito a sentirsi vivo. Invece ora la sua voce deve farsi sottile e morbida e dolce. Ogni suono ferisce Loletta e le parole dell'amore può solo mormorarle piano, come una ninna nanna o come una preghiera. Ballata a Loletta. I think of beauty is a joy forever. All'ospedale del Sacro Cuore, questa sera è entrato l'amore. Visi di cera, visi di pianto, tutto il dolore è sparito d'incanto. Nelle tue carni la pena è sopita, resta l'amore, resta la vita. E son passati la morte e il dolore, all'ospedale è entrato l'amore. Canta una nenia, antica e banale, come una bimba quando sta male. La nenia antica, banale ma bella, di quando avevi la varicella. La varicella né più né meno, che ti ha lasciato un segno sul seno. Ma poi passarono il male e il dolore, nel tuo lettino entrò l'amore. Sul tuo lettino, con giovane impegno, ho ribaciato e baciato quel segno. Poi tanti segni ha lasciato il dolore sui nostri corpi per fare all'amore. E ci ha segnato la guerra e la morte, ma il nostro amore è stato il più forte. E son passati la morte e il dolore, anche alle SS è entrato l'amore. Così da una carne son nate le figlie, innumeri genti, feconde famiglie, e abbiamo intrecciato in cammino le mani, guardando in avanti, guardando a domani. Or vola la spola, la trama già è ordita, l'abbiamo tessuta con tutta una vita. Se venga pur oggi la morte e il dolore, ha vinto la vita, ha vinto l'amore. E quando nei giorni di un libero mondo i figli dei figli in un vespro giocondo udranno echeggiar l'antichissima nenia dei tempi lontani di Uria e di Xenia, sapran che la favola nostra è finita per fare più piena e più bella la vita, e che all'ospedale del Sacro Cuore questa sera è entrato l'amore. 3 gennaio 1952. Era la 24esima e ormai penultima puntata del Gioco dei Regni di Clara Sereni. Questo ciclo di Ad Alta Voce ci è consegnato dalla voce di Monica Piseddu. È un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, alla regia Riccardo Amorese. E come sapete, le puntate si possono riascoltare sul sito raiplayradio.it.